Road to Freedom, la strada per la libertà. Poi torniamo tra pochissimo. Luca Livoti, binario 69, Comini Express, estate 2024. Resti un pochettino in diretta telefonica con noi? Certo, assolutamente. A tra poco, a tra poco. Ciao. Lie to you, some crucify you, you wonder why you ask what did I do, a lesson well learned, some humans live to burn, give you pain you did not earn, but don't accept it, you just turn away, I've got to do wrong, cause I sure cannot stay here, I have got to move on, cause I sure cannot stay here. Has been bruised since time you paid dues. You seem to still lose, though meek and humble. You still will stumble, evil may rumble, your joy may tumble. Keep your head held high, rainbows will not lie. Your tears will soon dry, and these dark clouds will fly away. Quando il Vinyl Touch incontra il Flavor Touch, il mix è semplicemente perfetto. Comini Express, in via Fioravanti 68, tutti i mercoledì, mette due giradischi a disposizione di chiunque vuol far suonare i propri vinili. Il tutto mixato con il gusto e i sapori della nostra cucina. A fare gli onori di casa Willy Groove, da Radio Città Fujiko. Fondo Comini, via Fioravanti 68, ingresso gratuito. Baci piano col basket, no, sto totalmente fermo, ci mancherebbe, anzi. Come abbiamo ascoltato in precedenza, intanto grazie per la comunicazione al 333-180-9494. Vi aspetto domani 18:30, inizieremo con una selezione in vinile, portate i vostri vinili, avremo modo di intervenire, di presentarli, di fare due chiacchiere, di portare anche al mixer ascoltatrici e ascoltatori dei 103.1. Serata col vinile, con il vostro vinile, che sarà domani con Mini Express dalle 18:30 circa. Vi aspetto. Il Last Minute termina qui. A breve avremo un Mood Groove dedicato a It's a Family Affair. Sono affari di famiglia, le grandi famiglie nel basket e non solo, anche nella musica. Troveremo, quando si dice vi è capitato, ah sì, quello è il fratello Tristo. No, no, guardate che molte volte sbagliamo a sottovalutare i fratelli che hanno avuto un po' meno successo, eh. Ne avremo qualche esempio nel Mood Groove di oggi. Aspetto la palla 2 di Paolo Onofri. Ringrazio e saluto Pietro Rossi, che anche oggi purtroppo non può essere in diretta con noi. Mi raccomando, Pietro, dalla prossima, se no scatta la multa, eh. A tra poco con il Mood Groove.